Io sono Cristina della neonata associazione Nelumbo, che l'anno scorso è nata in periodo di lockdown e dopo una settimana dalla sua nascita ha avuto la possibilità di partecipare insieme al consultorio transgenere di Torre del Lago nella stesura di un'offerta tecnica che ha partecipato a una gara d'appalto della regione toscana sull'assegnazione di una casa appunto di proprietà della regione che era chiusa da 20 anni. Abbiamo avuto questa possibilità grazie alla presidente del consultorio transgenere Regina Satariano e all'avvocata Cristina Polimeno, che ci hanno contattato appunto per iniziare questo progetto, che nasce da un'idea della presidente del consultorio dopo anni di raccolte di richieste di aiuto di persone trans che chiedevano la possibilità di uscire dai loro contesti sociali, familiari o comunitari ostili per riprendere in mano la propria vita e poter attivare dei percorsi in autonomia rispetto ai contesti ostili da cui provenivano. Il motivo per cui nasce l'idea di una casa rifugio che sarebbe poi la prima in Italia. La progettazione di questa casa in questa fase si sta sviluppando su due piani, un piano pubblico e un piano progettuale ovviamente. Il piano pubblico è quello che stiamo vedendo in questo momento sui social, Instagram, Facebook, grazie a Produzioni dal Basso con cui stiamo facendo questo crowdfunding. Ci sono due squadre diciamo di lavoro che poi dipendono tutte dalla stessa squadra di lavoro, e c'è una parte che si occupa appunto dei social in cui stanno collaborando persone che sono all'interno del territorio toscano e persone che stanno al MIT di Bologna. A proposito, ringrazierei Cinzia, Gianluca, Mia e Anna per il grande lavoro che stanno facendo. Poi c'è tutta la parte progettuale, che è quella che si occuperà nello specifico del progetto in sé, che dovrà essere poi sviluppato nel futuro e avere quindi un budget grosso di funzionamento a lungo termine, di cui dovranno sicuramente prendersi carico le istituzioni. Quello che chiediamo in questo momento è di supportare la campagna pubblicitaria e pubblica che in questo momento è sui social con l'hashtag Apriamo Casa Marcella, e soprattutto di fare donazioni affinché si possa legittimare poi la presentazione di un progetto ufficiale che possa essere a lungo termine. Il crowdfunding ci servirà sicuramente per mettere in funzione e rendere diciamo legale l'utilizzo della casa, perché necessita di strutturazioni interne tra cui il bagno, le finestre e cose più banali come i suppellettili e l'arredamento. Ovviamente il discorso di supportare Casa Marcella sia economicamente che a livello pubblico diventa funzionale anche rispetto al pensare una legittimizzazione davanti a un'istituzione, per cui poter presentare un progetto che ha dietro di sé un grosso supporto. Quello che chiediamo è di spammare, come si dice, la pagina di Casa Marcella, il progetto, e di donare il più possibile. A proposito di donare il più possibile, ti chiedo, Cristina, se puoi ripetere ancora una volta i mezzi attraverso cui si possono fare queste donazioni e dove fisicamente si può fare questa cosa. Sia sulla pagina Instagram che sulla pagina Facebook di Casa Marcella potete trovare il link di Produzioni dal Basso, che apre direttamente sulla pagina di Casa Marcella, dove c'è sia il comunicato stampa, tutte le collaborazioni, tra cui Cristian Pietrini, Greta La Medica, che hanno supportato il progetto, e c'è direttamente il link facilitato per l'eventuale bonifico. Sto parlando a nome di tutte le persone che stanno collaborando in questo progetto, che sono veramente tante, stanno lavorando sia nell'ombra che mettendoci la faccia, quindi un grazie collettivo a tutte le persone.